Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, cominciamo bene con la lingua rotacizzata. Oscar Giannino vi saluto e vi ringrazia per l'ascolto in diretta, in podcast come sempre, in questo sabato 4 febbraio, le 10, 7 primi e 40 secondi, qui in diretta nel studio di Milano. Siamo in informazione con l'altro compare Renato. Buongiorno. Che felicità essere qui con te. Mentre il nostro carissimo Mario, Mario Seminerio, è collegato con noi, resta collegato per tutta la trasmissione. Mario, ci sei? Eccoci, buongiorno a tutti. La voce squillante, neanche fosse praticamente alla voce migliore e più forte della nostra, Renato. Certo, adesso proveremo anche con la faccia, così riusciremo a migliorare anche quello. Miracoli della radio, cari miei, non si può. Allora, è l'informatica, è l'internet, E caro Alberto Carnevale Maffè si collega nel corso della trasmissione perché c'ha delle esercitazioni e delle prove di esame dei suoi ragazzi a cui insegna in Bocconi, quindi rispettiamo il dovere che viene prima. Ma allora, cari ascoltatori, di che cosa parliamo oggi? E vi dico subito su cosa siete pregati, se lo volete, se potete, di chiamarci all'800240024. Dopo il punto iniziale della trasmissione, in cui vediamo un pochino cosa succede, guardando soprattutto alle attività veramente sorprendente, numerose nell'arco della giornata del presidente americano, però insomma il punto iniziale sui dati del mercato italiano internazionale con Mario Seminerio. Poi abbiamo una prima parte della trasmissione in cui ci poniamo la questione della procedura di infrazione che grava sulla testa dell'Italia nel caso in cui non si rispettasse la richiesta dell'Unione Europea sull'eccesso di deficit nel 2017. Sapete che abbiamo risposto alla richiesta con una lettera che ha lasciato la Commissione Europea delusa, perché si diceva che 3/4 di questa correzione di 3,4 miliardi si facevano con più entrate, ma non si diceva quando, e la Commissione l'ha detto chiaramente: vabbè, allora la volete questa infrazione. In Parlamento, in Senato, il ministro Padoan ha detto no, la facciamo entro aprile, però l'impegno sulla carta non c'è. Ma ci poniamo la questione, oltre a questo io ve lo chiedo, ci credete ancora a queste procedure di infrazione? Oramai il numero di paesi che le hanno violate, anche di grandi paesi, è tale che non c'è più nessuna credibilità alle regole del patto di stabilità e di crescita europeo. Come mai, faremo il punto con Sandro Gozzi, come mai l'Italia è il recordman delle infrazioni nella storia dell'Unione Europea? Perché ce ne siamo sempre sbattuti delle regole. O no, c'è un'altra ragione? O è la maniera attraverso cui il corpaccione amministrativo che scrive le leggi nel nostro paese, aiutando i politici, automaticamente tende a non essere in linea con il recepimento del diritto e delle direttive europee? Ci poniamo questa questione con Sandro Gozzi, ma la domanda per voi è: fregarsene le regole europee non valgono più? Siccome molti di voi pensano che sia giusto rispondere sì, però ci telefonate e argomentate con che cosa pensate poi di sostituirle, se la pensate davvero così. Dopodiché, dopo la pausa, ci poniamo un'altra questione. L'altra questione che ci poniamo è, partendo dalle parole pronunciate dal presidente della BCE Mario Draghi in questa settimana, rispondendo a un'interrogazione di parlamentari europei, ha detto: chi lascia l'euro deve pagare il prezzo prima, deve pagare il conto prima, il conto, ha detto testualmente. Ma di che conto si tratta? Ecco, ci porremo il problema con un ospite che ha scritto su questo tema sulla voce.info, col professor Andrea Terzi, che insegna economia monetaria all'Università Cattolica. Molti hanno pensato che il costo da pagare prima di uscire dall'euro, per chi eventualmente volesse, è il saldo di Target 2. Allora, su questo saldo di Target 2 rispiegheremo che cos'è Target 2 e ci chiederemo: ma è davvero quello? O comunque, qual è il conto da pagare se si esce dall'euro? Anche su questo chiamateci, cari amici, se pensate che qualcuno vi abbia convinto che non c'è nessun conto da pagare, che è un un'uscita gratis, ci chiamate, ci dite perché, altrimenti noi vi diremo la nostra e voi, se pensate che c'è il conto da pagare e magari è rilevante, chiamateci pure. Quindi questi due temi per chiamarci all'800240024. Mario, che tra poco ci dà il punto, ma oltre a questo, quale altre vicende o opinioni dare di cosa è accaduto in settimana, Mario? Ma una cosa che mi ha colpito, mi ha anche divertito, perché sai, adesso bisogna divertirsi anziché incazzarsi, è che nel decreto salva banche, che a breve arriverà in aula, è stato inserito un emendamento per mano del parlamentare calabrese del Partito Democratico Renato Turano, che è un imprenditore che vive da sempre a Chicago, che infatti è stato eletto nella circoscrizione America Settentrionale Centrale. Che cosa ha inserito nel decreto salva banche? Una garanzia per 97 milioni di euro, per che cosa? Per le banche? Per il Monte Paschi? Per le Venete? Non esattamente, per la Ryder Cup di golf che si disputerà a Roma nel 2022. E per la quale il governo ha già stanziato una sessantina di milioni. Notare che questa garanzia da 97 milioni era già presente a fine anno nella legge di stabilità, ma poi è stata stralciata perché è considerata un provvedimento microsettoriale, quindi per i nuovi regolamenti questi vanno espunti. Quindi manco si trattasse di un decreto omnibus, di un mille proroghe o di qualche amenità del genere, ci troviamo nel decreto salva banche, perché il governo ha già dato parere favorevole, una bella garanzia per un torneo internazionale di golf che si svolgerà a Roma nel 2022, che è il più importante torneo internazionale di golf, che entra nel decreto salva banche. Quindi sulla tecnica legislativa italiana credo che abbiamo avuto l'ennesimo preclaro esempio di quale mercato delle vacche è questo paese. Poi mi raccomando, date la colpa a Juncker, alla Merkel, alla Commissione Europea, andate avanti così, fatevi del male. Ma poi bisognerà pure che un giorno, Mario, insurgiamo a tutela della grande tradizione di rettitudine e di onestà dei rapporti personali che erano alla base del foro boario, cioè del famoso mercato delle vacche, che a confronto di questo, secondo me, era assolutamente una palestra di trasparenza e rettitudine. Se non altro là, quando stringevano la mano, era fatto e ci si teneva la parola data con una stretta di mano. Però detto tutto questo, invece Renato, tu? No, io questa settimana sono abbastanza adirato, perché continuo a vedere queste discussioni sull'ombelico dei politici, sulla legge elettorale, le beghe interne di partito e tutte queste cose qua. Poi guardi Padoan che va a fare la sua relazione sulla legge di stabilità finanziaria, come la vogliamo chiamare, e ci sono 13 senatori perché è giovedì e questi tornano a casa. Ragazzi, e allora io dico, cioè, dobbiamo capire cosa è importante per la politica. Se la politica a questo punto è importante solo la politica e quindi il loro ombelico, le elezioni, il loro posticino eccetera eccetera, o l'interesse del paese. Io devo dirvi che invece faccio una sola battuta sulla vicenda di questi ultimi due giorni, cioè della polizza a Roma, perché mi ha colpito scoprire naturalmente tutti esperti di polizze, e nel scoprire tutti esperti di polizze al 99% tutti persuasi che mica c'è bisogno di identificarlo il beneficiario. Ah, siccome io poi prendo atto, ci sono delle battaglie inutili da compiere, quando l'ondata di marea arriva, l'ondata di marea arriva. Continuo a dire ai nostri ascoltatori, ci sono una infinita varietà di polizze, per esempio polizze vita e non solo morte, quindi con capitale preversato rilevante e riscattabili per esempio dal beneficiario, che hanno non solo l'obbligo di identificazione ma un obbligo di identificazione rafforzato e di comunicazione dell'antiriciclaggio rafforzato. Quindi il mio pressante e inutile invito a tutti, e per l'ennesima volta, quando capita una vicenda pubblica che si incardina su un prodotto prodotto finanziario o su una tecnicalità di mercato, e rivolgersi a chi ne sa qualcosa. Poi, se tutti si vogliono improvvisare maestri, benissimo, non per questo avete diritto però di scrivere lettere di insulti, cioè le lettere di insulti arrivavano perché attribuivano le spiegazioni che si dava su gli obblighi che esistono di identificazione e di comunicazione antiriciclaggio per tipo di polizza in Italia, venivano naturalmente visti da molti come tentativo di delegittimazione del sindaco di Roma. Tra l'altro, assolutamente no. Io vi dirò comunque, e aggiungo, che crederò davvero, io piena fiducia nella magistratura, ci mancherebbe, però crederò davvero che il Romeo sia un singolare personaggio che accende polizze a figlie inesistenti, perché di questo si tratta, così, perché è uno che non sa che fare di chissà che patrimonio rispetto al suo reddito, che non arrivava a 40.000 euro lordi. Ci crederò una volta che ho letto le carte del magistrato, perché a me la vicenda continua a non tornare, perché io non ne conosco di persone che accendono polizze in giro per persone con cui non hanno rapporti o a finte figlie. Sapete, se mi viene in mente che se uno fa una finta figlia vuol dire che è un assegno al portatore su cui cambierà il beneficiario quando riterrà che ci sia qualcuno degno di essere poi colui che riscatta la polizza. Magari mi sbaglio. Solo a me fanno firmare sempre il foglio dove dico che non sono politicamente impegnato e tutte queste cose qua. Però pare invece che abbiamo scoperto ieri che in tutte le agenzie assicurative, tutti i promotori che raccolgono e che accendono polizze, praticamente, cioè, dice, a chi l'ha in testa? Ponzio Pilato. Benissimo. E allora, io ieri sono rimasto colpito più da questa vicenda che da quella poi, che comunque si è chiusa come avete visto. Io invito oggi, se guardate i giornali, vedete che ci sono già, dice Repubblica, gli effetti del sondaggio che pubblica oggi a pagina 2 e 3, con l'arretramento sia del PD ma anche dei 5 Stelle, pare che incorporerebbero già le vicende di questi ultimi giorni, non so come, perché dovrebbe essere un sondaggio fatto ieri mattina, però Repubblica così dice. Torniamo tra pochissimo. Della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupare. Eccoci qui, tornati in studio, Oscar. Con Renato Cifarelli è collegato Mario. Allora, Mario, questa settimana da che cosa partiamo per il punto? Un paio di dati italiani, ad esempio l'inflazione, abbiamo visto che risale l'inflazione allo 0,9% annuo, questo è il dato di dicembre. Questo naturalmente non fa altro che essere l'adeguamento, il trascinamento, così come sta accadendo in tutti gli altri paesi europei, all'aumento dei prezzi dell'energia e degli alimentari freschi, che stanno registrando un discreto boom a livello di prezzo. Adesso, siccome abbiamo sentito numerosi giornalisti commentare non avremmo mai immaginato di essere così lieti di una ripresa dell'inflazione, eccetera, eccetera, sì, d'accordo, cioè, ho sentito anche gente dire forse questo vuol dire che la domanda riprende, che la congiuntura si sta riprendendo. In questo caso specifico anche no, perché basterebbe guardare la cosiddetta, quella che Istat chiama inflazione di fondo e che gli anglosassoni chiamano inflazione core, cioè quindi al netto delle componenti volatili di alimentari ed energia, per vedere che quella italiana a dicembre passa da 0,6 a 0,5, allo stesso modo in cui quella europea resta intorno allo 0,9% sul tendenziale. Quindi, che vuol dire questo? L'inflazione che stiamo vedendo in questo periodo, ricordiamo che la Spagna è arrivata al 3% di tendenziale, che sono bei numeri, diciamo, è semplicemente il frutto del rimbalzo dei prezzi dell'energia da un anno all'altro e dei prezzi degli alimentari freschi. Questo è importante da valutare, perché non c'è nessuna ripresa e quant'altro, ho sentito dire bestialità del tipo il QE della Banca Centrale Europea, rilassatevi, non è niente di tutto questo per adesso. Poi vorrei fare un commento abbastanza rapido, perché sono temi che gli ascoltatori conoscono e saranno anche stanchi di sentirselo ripetere, sul mercato italiano del lavoro. Sono usciti in settimana i dati di occupazione e mercato del lavoro riferiti a dicembre, anche in questo caso. Ora, che cosa si evince? Intanto c'è un bel dato, no? La disoccupazione italiana è tornata al 12% complessivo. Però se noi andiamo a vedere in ambito di Eurozona e più in generale dell'Unione Europea, quindi tutti quelli che hanno e non hanno l'euro, siamo ai minimi dal 2009. Perché in Eurozona è al 9,6%, minimo dal 2009, e in Unione Europea è all'8,2%, minimo dal 2009. L'Italia, per l'ennesima volta, va in controtendenza. Ora, su questo si può anche discutere. Naturalmente la narrativa ufficiale governativa è che in Italia la disoccupazione aumenta perché c'è questo boom di inattivi che si trasferiscono armi e bagagli nel mercato del lavoro o come cercatori di lavoro, come occupati, e invece no. Il crollo degli inattivi, come sappiamo e come vi diciamo ad nauseam da un anno e mezzo a questa parte e oltre, è frutto e semplicemente e prevalentemente di un effetto demografico e normativo, cioè del fatto che ci sono delle coorti anagrafiche che stanno invecchiando, quindi si spostano nella fascia over 50 e over 55, e poi la legge Fornero determina gli effetti di trattenimento sul posto del lavoro. Questi numeri sono da vedere, però per non tediarvi troppo con questa cascata di numeri, possiamo fare anche un piccolo confronto di cosa è successo nel 2016 al mercato italiano del lavoro. Allora, nel 2016, da dicembre 16 a dicembre 15, noi abbiamo avuto 110.000 lavoratori dipendenti permanenti in più. Tuttavia, abbiamo anche avuto 155.000 lavoratori dipendenti a termine in più, con un aumento del 6,6%. Quindi c'è un boom del lavoro a termine in questo paese rispetto al cosiddetto tempo indeterminato, così come emendato e modificato dal Jobs Act. Questo è il dato politico su cui riflettere, e noi invitiamo da tempo il governo e la maggioranza a riflettere su questo dato. Cioè, il Jobs Act, malgrado i 15 miliardi in un triennio di sussidi, non solo nel secondo semestre del 2016 l'andamento del mercato del lavoro ha l'elettroencefalogramma piatto come numero di nuovi occupati, non solo c'è una contrazione di nuovi occupati nel trimestre ottobre-dicembre, ma c'è una crescita robusta degli occupati dipendenti a termine, che è evidentemente frutto esclusivamente della congiuntura moderatamente positiva. Quindi questi sono dati politici su cui riflettere. Perché se noi ci basiamo per l'ennesima volta sulla valenza politica del Jobs Act come elemento di fluidificazione, di riattivazione del mercato del lavoro, i conti continuano a non tornare, perché nella migliore delle ipotesi il Jobs Act è stato un intervento al margine, monco e parziale, oltre che terribilmente oneroso. Ricordate che dal 1 gennaio 2018, in assenza di ulteriori interventi da parte del governo, statisticamente il costo del lavoro subirà un violento rimbalzo e rialzo che si leggerà nei dati Istat sul tendenziale. Quindi se voi avete un paese il cui costo del lavoro è stato artificiosamente tenuto basso per una porzione ovviamente della popolazione per 3 anni e dopodiché viene lasciato andare improvvisamente come una molla o come un elastico, gli effetti sono lì tutti da vedere. Se sommate a questo caso il fatto che avremo nel 2018 18 miliardi di clausole di salvaguardia da disinnescare, voi capite che il 2018 parte già con una robusta ipoteca. Però l'importante ovviamente è discutere se ci vuole il premio di coalizione, il premio di lista, la proporzionale, il modello spagnolo, il modello francese con scappellamento a destra e quant'altro. Per cui diciamo continuano a cascarci le braccia ed altre parti anatomiche. Ah beh, questo direi che per quanto mi riguarda è il quadro. Quelle teniamocele bene attaccate. Ci possono sempre servire. Non si sa mai. Raramente, ma insomma. Quelle lasciamole mai. Parla per te, Renato. Parla per te, esattamente. Io sono anziano, dai. No, vabbè, vabbè. Ragazzi. No, sono giovanissimo. Non iniziamo a entrare in statistiche che devono rimanere private, ovviamente. Noi parliamo dei numeri pubblici. A proposito di numeri pubblici, butto lì una cosa che mi è servita per fare una riflessione, cari ascoltatori, poiché grazie al decreto di accompagnamento della legge di bilancio, appunto, ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, entra in vigore una nuova disciplina degli obblighi di comunicazione per partite IVA che fanno impresa, e quindi la comunicazione che diventerà trimestrale a regime. Stiamo aspettando perché c'è un regime transitorio quest'anno, quindi bisognerà vedere se resta esattamente quello. Comunque, insomma, il ripristino degli elenco clienti fornitori e, come detto, dello spesometro che doveva sparire e invece ricompare. Allora, poiché c'è un gettito appeso di 2.4 miliardi a questa misura attesa da parte del MEF, che la considera una misura anti-elusione, anti-evasione, quindi non è affatto a costo zero, è un aumento delle entrate, e a questo naturalmente lo Stato non somma l'aumento degli oneri per noi che ci dobbiamo sottoporre a questo e che dovremmo pagare ovviamente i commercialisti e i professionisti, senza di cui questa cosa non sta in piedi. Sono andato per curiosità a vedere quante norme di lotta all'evasione e anti-elusione sono state presentate dal 2008 a oggi dai vari governi che si sono succeduti. Ecco, dal 2008 a questa, eravamo 2008-2014, erano 58, adesso sono diventate 64. Di queste 64 misure, una su 64 ha effettivamente ottenuto esattamente i risultati di gettito come ordine di grandezza, non preciso al milione, ma come ordine di grandezza che erano stati identificati. Ce ne sono poi 28, per 28 di queste, andando a vedere a consuntivo, il risultato non è stato affatto conseguito, in una misura che è però inferiore, diciamo così, tra il 30 e il 40%. Quelle che restano, cioè la metà secca di tutte quelle presentate, non hanno ottenuto alcun obiettivo, rende conto. Questo zero. Per dire, allora, un paese nel quale le misure di lotta all'evasione e all'elusione nel 50% dei casi si traducono solo in maggiori oneri a carico del contribuente per essere in regola con la norma, cioè per la cosiddetta compliance, cioè per l'adesione, per rispettarla e mettersi a posto, ma ottengono risultati zero. Secondo voi, cari ascoltatori, è un paese che la fa sul serio la lotta all'evasione? Ma fanno curriculum, Oscar? Io non lo so. Io fanno quando, curriculum per i quando per sono i andato a scartabellare il report della Corte dei Conti su questo, veramente mi sono detto. E poi risulta pure, perché c'è un report ufficiale della Corte dei Conti sul bilancio delle misure di lotta all'evasione e all'elusione. Ecco, io non ho molto da aggiungere. È un bilancio che dice tutto, però, della fuffa in cui una volta su due queste norme si traducono, sempre però con aggravi a carico nostro. Torniamo tra un minuto e ripartiamo dalla procedura di infrazione che grava come minaccia, come una spada un po' dal taglio spuntato la gola dell'Italia, se non correggiamo dei 3,4 miliardi il deficit 2017. Tra un minuto. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamo. Della belva. Eccoci qui tornati in studio, sono le 10.33 primi e in questa settimana audizione al Senato del Ministero dell'Economia, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il tema era la richiesta della Commissione Europea. No, no, caro governo italiano, gli impegni erano altri, dovete correggere ancora di 0,2% il deficit che programmate di realizzare aggiuntivo nel 2017 e nell'ambito della risposta inviata alla Commissione Europea non c'è l'indicazione precisa della data. La Commissione Europea fa capire all'Italia, beh, a questo punto si va alla procedura, Dombrovskis in particolare. Ecco, il giorno dopo interviene in Senato il Ministro dell'Economia. Concludo ricordando che l'ipotesi di possibile procedura di inflazione è estremamente allarmante. Un aggiustamento della dinamica del saldo di finanza pubblica strutturale è quindi indispensabile per evitare l'apertura di tale procedura. Questa procedura comporterebbe una riduzione di sovranità sulle scelte di politica economica e soprattutto comporterebbe costi ben superiori alla finanza pubblica del Paese e quindi sottrazione di risorse per il pubblico, per la crescita e per l'occupazione a seguito del probabile aumento dei tassi di interesse che risentono fin qui soprattutto della accresciuta instabilità politica. Ecco, avete sentito, è praticamente la prima volta, almeno da parte nostra, che ci ricordiamo, che un ministro dell'economia e delle finanze del nostro paese usa nei confronti dell'eventualità di una procedura di infrazione europea, relativa poi in particolare all'ipotesi di violazione delle norme del patto di stabilità e di crescita, per il rientro dei deficit, le espressioni allarmante, e questo d'accordo, ma perché è una riduzione di sovranità. Allora, se sono norme concepite e sottoscritte di comune accordo tra i paesi aderenti a un'unione di cui si crede, beh, sono le regole del ben vivere comune nell'Unione Europea. Quando le procedure di infrazione che vengono minacciate da chi ne è custode, la Commissione Europea, delle regole, vengono considerate delle riduzioni di sovranità, vuol dire che oramai quelle regole non vengono più riconosciute con lo stesso valore di prima, sono considerate una camicia di nesso. Non è una questione solo di parole, è una questione politica, perché in un contesto nel quale gli elettorati europei scelgono cose come la Brexit, in settimana c'è stato il dibattito parlamentare massiccio, il partito laburista, il Labour con 3 deputati su 4 ha votato per l'articolo 50, per capirci, vedremo cosa succede in Francia e così via, ma le parole usate dal ministro Padoan ci fanno capire che c'è poco da fare. La tensione, l'insofferenza verso le regole europee raggiunge anche campi che si dicono dichiaratamente contrari a quelli del populismo, dell'uscita dall'euro, dell'uscita dall'Unione Europea. Prendiamone atto, per così dire. Allora, ci siamo detti, come mai, andiamo a vedere sul problema delle infrazioni, come mai siamo il paese record delle infrazioni nella storia, come mai siamo il paese che ha la percentuale più alta di infrazioni che arrivano fino al giudizio finale della Corte. Allora, per parlare di questo abbiamo con noi Sandro Gozzi, che ha proprio la delega da questo punto di vista di seguire questa partita come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega per le politiche dell'Unione Europea, e partiamo da un presupposto. Adesso sentiamo che ci illustra l'andamento negli anni. È un andamento, per carità, cari ascoltatori, partiamo dandone atto perché è giusto così, in cui siamo per fortuna scesi molto negli anni rispetto a quando ne avevamo più di 150 aperte di procedure di infrazione. Grazie di essere con noi, Alessandro Gozzi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, facciamo lo stato, quanti ne abbiamo aperte? 70, ne abbiamo 70 e siamo stati in passato recente anche oltre i 150, come lei ha ricordato, ed eravamo a 119 ed erano in salita al 2 marzo 2014. Quindi diciamo che il governo Renzi, l'inizio del governo Gentiloni, ma direi soprattutto il governo Renzi in questo caso, ha ridotto le infrazioni dell'Italia rispetto all'Unione Europea del 42%. E l'Italia è negli ultimi 3 anni il paese con le performance migliori in termini di diminuzione delle infrazioni, di rispetto degli impegni in tutta Europa. E non sono parole del sottoscritto, sono parole scritte nel rapporto della Commissione Europea del 2016. Quindi in 3 anni abbiamo assolutamente invertito la tendenza. Oggi l'Italia non è neppure il paese che ha più infrazioni, anche se bisogna vedere, fare il calcolo alla fine dell'anno, quindi faremo la valutazione insieme in Europa alla fine del 2017, perché c'è un andamento che sale e scende durante l'anno, però veramente abbiamo cambiato, girato una pagina. Però se uno va a vedere il complesso, il track record storico, quello che ha detto lei, infatti sono partito anch'io da questo, storicamente stiamo andando meglio, quindi cioè, ci sta più a cuore evidentemente dal punto di vista politico e amministrativo l'adozione, il rispetto dell'adozione della normativa europea e il recepimento delle direttive. Però se andiamo a vedere nell'arco della storia, l'Italia è il paese che più spesso è finito davanti alla Corte, cioè siccome, cari ascoltatori, ci sono più passi nell'iter di una procedura di infrazione, no? C'è prima un primo allarme, poi c'è una contestazione. Quando si arriva fino alla Corte vuol dire che c'è un orientamento proprio deciso a tenere alta, per così dire, la propria bandierina nazionale. E ci siamo finiti, se uno va a vedere dagli anni 50 in poi, con addirittura una percentuale, la percentuale di casi arrivati alla Corte di Giustizia Europea è quasi 17% d'Italia da solo, che è insomma una percentuale molto rilevante. Uno. Poi va a vedere, andiamo a vedere su cosa, su che materie finiamo in procedura di infrazione. E a quel punto, quando si arriva fino alla fine, si pagano anche bei soldi, ecco, cari ascoltatori. E noi, ci sono materie come l'ambiente in cui si addensa la percentuale più elevata delle nostre infrazioni. Allora, le faccio questa domanda: perché secondo lei storicamente siamo così proclivi a essere la pecora nera? Non più in questi anni, sì, ma sul totale è così. E perché in alcuni settori, in particolare l'ambiente, le discariche, il trattamento dei rifiuti, c'è poco da fare, in tanti decenni continuiamo a essere la pecora nera? Allora, sono totalmente d'accordo con quello che lei ha detto e con la situazione del passato che lei ha descritto. Lei mi chiede perché. Io credo alle sue due domande di dover rispondere in questo modo. Alla prima domanda, perché storicamente l'Italia era veramente maglia nera? Siamo diventati maglia rosa, speriamo di rimanere maglia rosa in questi ultimi 3 anni, però storicamente, lei ha ragione, siamo stati maglia nera. Io credo per due motivi. Il primo perché fino al 2014 nessun governo, tranne forse l'esperienza con Emma Bonino, ministro delle politiche europee nel 2006, ma nessun governo ha fatto veramente della lotta contro l'illegalità europea, perché diciamo tradotta in frazione vuol dire illegalità europea, certo. Nessun governo aveva fatto della lotta contro l'illegalità europea una vera priorità. Si considerava la violazione delle norme europee qualcosa di secondario, di accettabile, a volte addirittura di politicamente conveniente rispetto alla fatica che si doveva fare per applicare una norma che magari andava a colpire alcuni interessi precostituiti, andando però a vantaggio della collettività. Questo è il primo punto. Noi invece abbiamo fatto al 2014 della lotta contro l'illegalità europea, sia in termini di violazione delle norme, sia in termini di lotta alle frodi al bilancio europeo, magari ne parliamo in un secondo momento, la nostra priorità. Ma farne la priorità non basta. Bisogna vedere come ti organizzi per fare in modo che questa priorità diventi veramente il lavoro del governo. Noi abbiamo rafforzato moltissimo il coordinamento interministeriale, perché senza coordinamento tra ministeri, senza vero gioco di squadra, è molto facile cadere nella violazione della norma, cadere nel ritardo, cadere nel far passare il termine entro il quale bisogna adempiere a un certo obbligo europeo. Attraverso un coordinamento attorno alla Presidenza del Consiglio questo invece si riduce e i risultati ci sono stati. Primo. Secondo, abbiamo fatto una sorta di patto politico col Parlamento, proposta a tutte le forze politiche, non solo quelle di maggioranza, dicendo: guardate, il governo si impegna, anziché a presentare una legge all'anno contro l'illegalità europea, ne presentiamo 4 all'anno, ogni semestre 2, tendenzialmente 4 all'anno, diciamo 4 ogni 12 mesi, ok? E in cambio però noi lavoriamo in prima lettura con tanto di emendamenti alla Camera e al Senato, in seconda lettura la approviamo senza modifiche. Questo ha permesso di accelerare moltissimo il lavoro legislativo necessario e quindi ci ha permesso anche di rispettare i tempi, perché alcune infrazioni, violazioni sono date dal fatto che non rispettiamo la norma o non la recepiamo, non la introduciamo. In altri casi è che arriviamo tardi con questo patto che abbiamo fatto con le Camere, patto nell'interesse del Paese, siamo riusciti a accelerare anche il lavoro. E questo, diciamo, sono i motivi che in passato non c'erano, delle condizioni, scusi, che in passato non c'erano e che hanno portato l'Italia ad andare anche a 160 infrazioni e che oggi ci sono e che hanno permesso all'Italia di passare da maglia nera a maglia rossa. Secondo poi lei c'è un tema, poi c'è il tema dell'ambiente. Ecco. Il tema dell'ambiente, guardi, io soffro di sinusite, ma il mal di testa che mi dà il diritto dell'ambiente è molto maggiore che quello di della mia immagino. Perché? Perché lì c'è una ripartizione di competenze tra Stato, Regioni, Comuni, esatto, che rende spesso nella pratica impossibile rispettare la norma, impossibile assicurare che ci sia l'azione amministrativa necessaria nei fatti per rispettare la norma. Ecco perché abbiamo gravi contenziosi con l'Europa in materia di discariche, vedi Regione Campania, in materia di acque reflue, tantissimi comuni, in materia di altri aspetti di gestione dei rifiuti, di nuovi di Campania e altre regioni. E quelle sono quelle più gravi. Il 16% delle attuali 70 infrazioni, il 16% di queste sono in materia ambientale. Buona parte di queste dipendono da un'azione che non arriva o non arriva come dovrebbe dalle regioni, dai comuni. Anche da questo punto di vista noi abbiamo cominciato per la prima volta a imporci con dei poteri sostitutivi, cioè laddove possiamo il governo, lo Stato, si sostituisce alle regioni e fa il lavoro che le regioni dovrebbero fare, con tanto poi di ricorso per danno erariale alla Corte dei Conti. Però in alcuni casi non è proprio possibile sostituirsi alla regione o al comune. In certi casi non è possibile commissariare, abbiamo nominato dei commissari per fare questo lavoro, ma in certi casi non è possibile. In certi casi o la regione o il comune fa quello che deve, oppure l'Italia, cioè tutti noi, cioè 60 milioni di cittadini italiani, rischiano di essere sanzionati e di pagare multe salate e interessi ancora più salati. Questa è la battaglia che dobbiamo fare e stiamo facendo anche in questo periodo. Io lo dico a chi ci ascolta, scusate, non per riaprire i capitoli dolorosi del referendum che abbiamo votato il 4 dicembre, però quello che si vede nei casi che ci sono costati di più anche in termini di sanzioni pagate, come pacchi di milioni pagate per le procedure di infrazione europea, proprio in materia ambientale e di discariche, chiunque faccia una riflessione sul perché capisce che è l'ordinamento che ci siamo dati in Italia che non consente di avere innanzitutto di seguire norme ragionevoli, ragionevolmente omogenee e ragionevoli per gli effetti di misura affidabile e di miglioramento dell'ambiente, sia che riguardi gli effetti della produzione umana, che degli insediamenti urbani, che del trattamento chiuso del ciclo delle acque. Abbiamo un cacchio di architettura istituzionale che non ci mette in condizione di raggiungere il risultato. Eppure, mi dispiace dirlo, questo che si deriva proprio dal fatto che le procedure di infrazione ambientale sono quelle che ci sono costate di più in termini di pagamenti per le sanzioni dovute all'Europa, ecco, eppure questo argomento non rimbalza nel dibattito nazionale, perché la durezza con cui le regioni difendono le loro prerogative su questo le rende sorde al fatto che c'è l'evidenza. L'evidenza è quella di cui ci stiamo parlando oggi, del fatto che non funziona, non ci mette in condizioni se non di pagare multe, ecco, che secondo me rivelano non tanto la loro onerosità, che ovviamente dà molto fastidio a me contribuente, a tutti i contribuenti, ma rivelano il fatto che proprio non è possibile stare con una cosa di questo genere. Questo secondo me è il dato di maggior rilievo che ci consegna l'intero capitolo delle infrazioni europee per quello che riguarda il nostro ordinamento interno. Io sono poi anche convinto, tra un minuto poi ripartiamo di qui con Sandro Gozzi perché dobbiamo fare una sospensione, che ci sia anche un problema che riguarda i vertici apicali della pubblica amministrazione italiana, che spesso sono i fondamentali cooperatori della politica nel scrivere le norme, nel non tenere la testa sul diritto europeo, che io credo che molto dipenda da questo nel procedimento di redazione delle norme italiane. Tra un minuto torniamo partendo da questo punto. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, eccoci tornati qua di nuovo in studio, è con noi Sandro Gozzi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con la delega per la politica dell'Unione Europea. Stiamo facendo il punto sull'inflazione europea partendo dall'ipotesi dell'eventualità di un'inflazione nel caso in cui non ci fosse la correzione del maggior deficit stimato dal governo del 2017, e abbiamo approfittato di questo per vedere però come la maglia nera, che insomma la pecora nera anzi è stata storicamente l'Italia su questo terreno delle infrazioni europee, in questi anni si è dato un ordine di priorità un pochino più focalizzato nel levarci di dosso quel triste primato, e i risultati numeri ci sono, resta però un problema. Io ho la sensazione che dipenda anche un po' dal fatto che i vertici della pubblica amministrazione, i capi di gabinetto, che sono figure essenziali del politico perché sono detentori di un sapere tecnico di cui il politico non è detentore rispetto alla complessità delle normative, dei temi di diritto e delle competenze che si sono cristallizzate nel tempo, secondo me molti di questi personaggi essenziali per la redazione dei testi politici in Italia non ha o per natura o per convinzione la testa sulle norme europee, che sono invece la fonte prioritaria del nostro diritto. Secondo lei non conta anche questo, Gozzi? Sì, è una questione di cultura della legislazione, di cultura amministrativa, bisogna molto lavorare. È un lavoro molto più difficile che noi abbiamo cercato di fare in questi anni, dando sempre una grande enfasi, mettendo sempre molto l'accento sulla necessità di rispettare i nostri impegni e cercando anche nel quotidiano, settimana dopo settimana, di rafforzare quei meccanismi di dialogo, di coordinamento, di valutazione preventiva che devono aiutarci a evitare che proprio nel momento in cui noi facciamo le norme cadiamo nell'illegalità europea, perché o non teniamo conto dell'esistenza di norme europee o le trascuriamo volutamente perché facciamo prevalere altre logiche. È un lavoro complesso che deve continuare perché, come lei giustamente diceva, è un lavoro veramente di approccio culturale. Anche da questo punto di vista dei passi avanti li abbiamo fatti, perché erano veramente ogni settimana al nostro livello di membri del governo, a livello di capi del gabinetto, a livello di capi dell'ufficio legislativo, si fanno finalmente riunioni per valutare lo stato delle cose, fanno riunioni per verificare in alcuni casi, per esempio, gli aiuti di Stato, un'altra cosa su cui eravamo molto in ritardo. Abbiamo cominciato a migliorare perché è una normativa, è un settore in cui spesso l'Italia, per mancanza di buona valutazione preventiva, si trova poi a creare grossi problemi alle imprese, perché quando si dà un aiuto di Stato che è illegale dal punto di vista europeo, magari un'impresa 5 anni dopo è obbligata a restituirlo. Voi capite i problemi che tante imprese italiane piccole hanno avuto. Ecco, anche su questo cerchiamo di fare sempre una valutazione previa, cioè di prevenire anziché curare. Lei ha toccato dopo un punto. E da questo punto di vista abbiamo fatto, io ho siglato con una delle migliori commissarie che abbiamo in Europa, che è Margrethe Vestager. Io sono convinto che Margrethe Vestager, come commissaria alla concorrenza, sia una delle migliori commissarie che abbiamo, qualcuno che veramente dà dignità alla Commissione. Con lei abbiamo negoziato per 2 anni un accordo di partenariato in materia di aiuti di Stato che deve permettere a noi di rafforzare un po' il coordinamento interno, e a me, al sottoscritto, Presidente del Consiglio e alla Commissaria Europea, di discutere prima che la norma venga adottata. Io ho trattato una questione di aiuti alle imprese della zona di Venezia e Chioggia, aperta dal 98. Se noi non l'avessimo risolta con la Commissione, quelle imprese, tante di quelle imprese avrebbero dovuto fallire per restituire gli aiuti di Stato. Per la restituzione, sì, sì, sui terremoti prima di quello dell'Emilia, prima del 2012, in teoria c'erano 87.000 imprese italiane che hanno rischiato di dover restituire aiuti che risalivano agli anni 80. Oh, naturalmente bisogna vedere anche l'altra faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia è che procedure così lunghe, pendenti, sulla questione degli aiuti di Stato da parte dell'Italia, e ringrazio Sandro Gozzi per aver lui stesso segnalato che questo è uno degli altri terreni di frequente caduta dell'Italia in infrazione, e visto da altri paesi membri forti dell'Unione Europea come la classica modalità con cui l'Italia alla fine tende comunque ad aggirare troppo spesso norme sugli aiuti di Stato e dare soldi alle imprese. Quindi questa cosa non ha neanche fatto bene, secondo me, dal punto di vista politico, nel rapporto con altri grandi paesi europei, al nostro paese. E la questione, a mio giudizio, è proprio quello di fare la valutazione ex ante, di impatto di ogni tipo di provvedimento, normativo, legislativo, amministrativo, uno dei pilastri fondamentali che nel nostro paese, nella nostra cultura amministrativa, è mancata. C'è, per chi fosse interessato ad approfondire questo tra i nostri ascoltatori, sia sul blog di Mario Seminerio sia sul Leoni blog che pubblichiamo all'Istituto Bruno Leoni, numerosi interventi per esempio di giuristi come Vital Bazzolini, che lavora in Consob, proprio sull'importanza, con molti esempi e anche comparati negli altri ordinamenti, di come considerare la valutazione di impatto ex ante la nuova frontiera che ci serve per valutare tutti gli effetti, non solo quelli della compatibilità e coordinamento con le norme europee, ma poi gli effetti amministrativi, la compliance, i costi, e il pilastro fare valutazioni ex post anche dei provvedimenti, insomma come si fa anche nelle procedure organizzative di impresa. Io però devo chiedere a Sandro Gozzi, lo so non è la sua competenza, di questo se ne occupa Padoan, ma la sua valutazione politica a questo punto, non istituzionale, ma cosa pensa della possibilità che su questo 0,2% del PIL si possa andare a un ritorno della procedura di infrazione verso l'Italia per troppo deficit? Io ricordo chi ci ascolta che in quel caso le sanzioni funzionano così secondo le norme del patto di stabilità europeo. Si infligge al paese che va in procedura di infrazione una sanzione che può essere, che è sotto forma di deposito infruttifero, che è pari allo 0,2% del PIL. In questo caso saremmo esattamente i 3,4 miliardi di cui ci viene chiesto di contenere aggiuntivamente il deficit per il 2017, e a quella ammenda, secondo le norme del patto di stabilità, si può aggiungere una componente variabile, che può arrivare fino a un tetto complessivo dello 0,5% del paese. Questa è la componente variabile con cui la Commissione gradua, per così dire, il giudizio sul rilievo dell'atteggiamento dopo remarks, dopo le obiezioni fatte al paese, se il paese se n'è fregato. Ecco, ci sono queste due componenti. Ma lei pensa che ci sia questa possibilità, Gozzi? No, io penso che il rischio sia veramente minimo, perché l'obiettivo di diciamo rispettare le regole, l'obiettivo di raggiungere un'ulteriore riduzione del deficit è un obiettivo condiviso da Italia e da Commissione Europea. È chiaro che l'Italia vuole farlo con dei tempi, delle modalità tali che in nessun modo possano incidere sulla crescita, che è tornata troppo debole, lo sappiamo, va rafforzata, ma ecco, non possiamo fare in alcun modo una manovra che possa avere un impatto, come si dice. Questa è la valutazione. Perfetto, io intanto la ringrazio per anche la cooperazione tecnica che ci ha dato, e noi ci sentiamo dopo il giornale radio. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in studio, con me insieme. Renato, c'è Renato, abbiamo collegato Mario. Eccolo. E si è aggiunto anche il professor Carlo Alberto? No, il professor Carlo Alberto no. Non ancora no, ma lo chiamiamo perché ci ha dato facoltà, credo che stiano facendo un'esercitazione in questo momento, da quello che so, ha messo gli studenti a fare l'esercitazione, e lui con un occhio vigile scruta che non si scambino informazioni improprie, e con l'auricolare è pronto a intervenire. Allora, direi che prima di andare alla questione, la questione è le parole pronunciate da Draghi rispondendo a un'interrogazione parlamentare sul fatto che chi se ne va dall'Unione Europea deve prima pagare il conto. Tenteremo di capire che conto è, come interpretare il fatto che lo ha scritto in un'interrogazione che gli era stata rivolta due europarlamentari, lui ha risposto, e quindi cercheremo di capire, nel caso in cui molti di voi siano pronti e d'accordo con chi se ne vuole andare dall'euro, a capire qual è il conto da pagare. Prima sentiamo però un paio di ascoltatori, e cominciamo con Massimo dalla provincia di Gorizia. Massimo, prego. Oh, buongiorno. Buongiorno. Beh, intanto complimenti per la trasmissione, sì, perché mi pare che nel panorama giornalistico voi siete i pochi che parlano di dati oggettivi in maniera chiara. Poi volevo dire, pacta sunt servanda, è uno dei fondamenti della civiltà odierna, contemporanea, non solo occidentale. Però lei lo sa che molti dicono, se si scopre che i patti erano sbagliati, ce li hanno imposti, non fanno i nostri interessi, si può cambiare idea. Quello che c'è di sbagliato è la politica che abbiamo in Italia, ma non da 20 anni, da 21 secoli, da quando è caduta la Repubblica Romana, che noi italiani non siamo in grado di gestire la cosa pubblica. Quindi sì, credo che sia meglio, anzi mi auspico, una perdita di sovranità a favore delle più serie istituzioni europee. Guardi, io non dico da dove ci sta chiamando di preciso, così le risparmio delle ritorsioni, perché già ieri, per il solo fatto di annunciare il tema del costo di uscita dall'euro, sui social può controllare, c'era gente che ci dava dei traditori, vi impiccheremo, verremo a prendervi a casa, perché oramai questo è il tono che alcuni guru intellettuali, io con loro sono durissimo, perché gente che insegna all'università e dice ai suoi followers di usare questo linguaggio, è spregevole e instabile mentalmente. Questa è la mia opinione, chi deve capire capisca, perché io penso che gli inviti alla violenza sono qualcosa che dovrebbe impedire di insegnare nelle cattedre, proprio impedirlo. Però detto questo, siccome questa è anche l'aria che tira, ma naturalmente io penso che sia qualche esagitato, ma io sono pronto a riflettere, e ricordo sempre a chi ci ascolta che mentre tutti tacevano e strisciavano nel 96-97, insieme a qualche matto, e io ero l'ultimo per autorevolezza, noi animavamo dibattiti in Italia su, per esempio, su quello che scriveva Martin Feldstein, che diceva: cari italiani, siete liberi di impiccarvi, resta il fatto che se non metterete insieme i mercati dei beni, del lavoro e dei servizi, scoprirete che una moneta unica non si regge. E l'Italia all'epoca, chi voleva l'euro diceva che li avremmo messi insieme, li avremmo resi quasi comunicanti in mercati, invece non è stato così. Però detto questo è solo per regolare il tono con chi ci crede di farci paura fisicamente, me ne sbatto le risate, ecco, di risate, questa è la mia opinione personale, parlo a titolo personale, non coinvolgo Mario, Carlo Alberto e Renato. Sentiamo invece come la pensa Giuseppe della provincia di Chieti. Giuseppe, prego. Buongiorno, sono molto felice venire. No, prima di dire qualcosa volevo perché non fate intervenire anche più spesso Carlo Lottieri, Luca Ricolfi, come che no? Ci mancano veramente, sono dei grandi. Questa è un'ottima idea, si figura. Veramente, sono dei grandi. E niente, volevo soltanto fare una puntualizzazione, tanto che la battaglia ormai è persa, perché chi sta sul campo sta vedendo che la deflazione è micidiale, sento potente, ha deflazionato, ha deflazionato i prezzi e ha distrutto praticamente i redditi. L'euro ci ha portato a questa conclusione, io questo vedo. Lei dice che è l'euro che ci ha portato a distruggere la distruzione dei redditi, sì. Questo è, lei è convinto di questo, sì. Ecco. Capito? No, l'imprenditore non riesce, qua sul valore non aggiunto, non riesce ad avere reddito, perché troppo bassi. Allora c'è solo una cosa da fare, purtroppo non si capisce niente. Adesso a me questo dispiace, perché ovviamente lei è per l'uscita. La battaglia è persa con la linea telefonica, temo, più che con l'euro, la deflazione. Però questo mi dispiace, perché sennò poi sembra che noi lo facciamo apposta. Comunque, la tesi di Giuseppe è non c'è altro da fare, è l'euro che ci ha messo in ginocchio. Carlo Alberto, ci sei? Sì, ci sono. Anche non sono ancora uscito dall'euro, sono ancora qua, ragazzi. Non sei uscito dall'euro? No, non sei neanche uscito da Bocconi durante oggi. Il weekend. Ma cosa faccio? Esco o non esco? Ragazzi, ho pensato che questo weekend piove. Non regoliamola con le battute, che capisce solo chi deve capire, si segue i social. Ma la questione è: noi restiamo ai temi seri, non facciamoci deportare sulle strade dei gurismi personali. Almeno questo era il mio invito, per così dire. Tu, per esempio, caro Alberto, pensi che ci sarebbe bene una bella procedura di infrazione oppure no? Ma ci sta, perché le flessibilità concesse agli italiani erano in realtà diritti di violare dei patti liberamente stipulati, che erano quelli di convergenza strutturale della spesa e quindi della sostenibilità del debito, che il governo, in particolare il governo Renzi, ha interpretato a suo modo. Sappiamo che ha voluto posizionare la politica economica del governo in una logica espansiva. Ci poteva anche stare. Questo Mario lo dice sempre, non è tanto il volume e la misura quantitativa della spesa, ma è la sua qualità. Ci poteva anche stare se questa fosse stata l'occasione per spendere bene, invece è stata l'occasione per spendere malissimo, Però fammi dire, il procedimento di infrazione, secondo me invece, è un esempio di disciplina, e ci può anche stare, anche se Padova non la vuole e fa bene a non volerla, perché ci ricorda che sostanzialmente dobbiamo confrontarci con un cambio profondo, non soltanto della spesa, ma della fiscalità. Lo ha ribadito con chiarezza la comunicazione dell'Unione Europea, che ci ha ricordato ciò che ci dice da mesi, anzi da anni, cioè che dobbiamo cambiare la composizione non solo della spesa ma anche del fisco, smettendo di tassare selvaggiamente reddito, lavoro e capitale e cominciando a tassare invece consumi e patrimoni. Ora voglio ricordare che abbiamo discusso la settimana scorsa di PIR, cioè del primo tentativo del governo di favorire, sia pure ancora in maniera un po' discutibile, gli investimenti in aziende italiane, favorendoli fiscalmente, che ha una caratteristica importante, che è quella di essere esentato dalle imposte di successione. Ora io sto interpretando una cosa, Oscar, magari sbaglio, ma secondo me questo segnale qua, che è arrivato dal governo ed è stato in parte concordato con l'Unione Europea, ci sta dicendo il suo esatto contrario, ovvero se investite in aziende e imprese, allora l'imposta di successione giustamente da un certo punto di vista viene esentata perché state investendo sul futuro. Se invece mantenete il capitale allocato in asset non liquidi, non produttivi, preparatevi perché arriva una vera patrimoniale, magari non sui vivi ma sui morti. Io mi aspetto che la prossima legge finanziaria contenga una significativa revisione delle aliquote sulle successioni. Io penso che, caro Alberto, parliamoci chiaro, io sono contrario alle azioni anticipate perché penso che abbiamo troppe vicende finanziarie aperte, il caso MPS, il caso delle due venete, speriamo che tutto di Unicredit vada benissimo. Sono felice che Intesa abbia frenato su Generali, non era il caso di buttare soldi per una banca che insomma è la più solida tra tutte queste. Lo spread l'abbiamo visto questa settimana, in tutti questi chiari di luna non penso che la priorità sia andare a votare, ma anche perché, come dicevi tu, la prossima legge di bilancio voluta da Renzi ha... E anche più di quello che ha ricordato Mario all'inizio, sono 19,6 miliardi di clausole automatiche tra IVA e accise e il rischio è che si faccia invece un aumento di entrate non con un fisiologico riequilibrio tra dirette e indirette patrimoniali, come diceva Carlo Alberto, e questa sarà materia di diverse puntate nel prossimo futuro, ma lo facciamo a casaccio, lo facciamo semplicemente con misure aggiuntive affazionate per aumentare il gettito, che noi così abbiamo fatto aumentando in pratica sia le imposte dirette sia le imposte indirette in questi anni, sia quelle patrimoniali, con l'effetto di avere effetti deprimenti sulla crescita. La leva fiscale è stata usata solo asimmetricamente per i saldi di bilancio dello Stato. Mario, secondo te l'argomento di cui abbiamo parlato prima, cioè procedura di infrazione, anche tu vedi nel tono usato da Padoan quello che dicevo io o sono un po' troppo polemico io? Però è la prima volta davvero che un ministro dell'economia italiana dice allarmante riduzione della sovranità. Ma a parte che la parola sovranità va molto di moda, per cui si tende ad usarla a volte anche a sproposito, penso che il richiamo di Padoan avesse così anche una sorta di intento strumentale in senso buono, cioè di dire guardate che perdiamo autonomia, eccetera, eccetera. Per cui non tendo a sovrainterpretarla, sì. Però quello che mi colpisce in tutte queste richieste di manovrine, manovrette, eccetera, è un aspetto di cui tra l'altro ho scritto anche ieri sul mio blog commentando, cioè la Commissione europea e tutta l'architettura europea in questo momento, ma da sempre, possono soltanto accontentarsi di una quadratura di saldi sul piano strettamente quantitativo, mentre non hanno i denti e le unghie per le misure qualitative. Cioè, cosa intendo con questo? Io Commissione Europea chiedo a te Italia 3,4 miliardi di aggiustamento, l'Italia le presenta una manovra fatta così a capocchia, no? Adesso non so se sarà vero quello di cui si legge in questi giorni sui quotidiani, del tipo accise, bolli, poi vabbè facciamo lo split payment, lo estendiamo, la reverse charge la estendiamo alla grande distribuzione, alla fine una martellata di qui, una martellata di là, ti consegniamo esattamente il quantum che mi hai chiesto. Però sul piano qualitativo non c'è una possibilità alcuna per la Commissione europea di ingerirsi, usiamo questo verbo molto sovrano e patriottico, nella politica economica italiana, cioè dire guardate che voi sono lustri che andate avanti ad aumentare le tasse, a tagliare le spese in maniera lineare e per ciò stessa nociva, a non intervenire come si dovrebbe, quindi alla fine noi un suggerimento ve l'abbiamo dato, però appena vi diamo un suggerimento noi non abbiamo modo di renderlo cogente, poi si alza il primo premier che passa per Palazzo Chigi e dice no, questi sono affaracci nostri, voi accontentatevi del fatto che vi consegniamo la quadratura contabile. In questo equivoco, cioè in questa imprecisione ed imperfezione di governance della Commissione europea e dell'Unione europea, l'Italia sta continuando da quel dì a stringersi il cappio attorno al collo. Perché poi questo è il problema. Fa anche interventi cui effetti negativi poi diventano il motivo usato per dire colpa dell'Europa. Cioè se si utilizza lo split payment e il reverse charge per dare liquidità alle imprese, c'è l'Europa che l'ha voluto. Invece è il governo italiano, e Vincenzo Misco all'inizio questo lo sono inventato. Traffico. Della belva. Allora, non so quanti di voi sappiano che cos'è un sistema che si chiama Target 2. Faccio un esempio concreto. Il ricchissimo nostro amico Carlo Alberto decide di comprarsi una potente automobile, la centunesima del suo garage, una potente automobile tedesca. No, allora si prende, costa 60.000 euro, diciamo così, niente di meno, perché sennò non è all'altezza delle altre che lui possiede. Va alla concessionaria qua a Milano e paga questi 60.000 euro con un assegno della sua banca, una banca italiana, Unicredit. Allora il concessionario lo mette in pagamento della macchina tedesca, lo mette in pagamento questo assegno e ovviamente lo mette in pagamento, avrà dei conti su una banca tedesca magari, no? So, Commerzbank e così via. Fine della cosa, c'è qualche debito commerciale da regolare? No, perché Carlo Alberto ha pagato alla sua potente, nuova, fiammante vettura e il concessionario tutto a posto. Cosa succede però? Succede che il rapporto viene regolato dalla banca italiana e dalla banca tedesca attraverso una piattaforma che è quella che registra i movimenti delle riserve delle banche all'interno dell'euroarea, e la cosa su questa piattaforma, che è appunto Target 2, diventa una partita in cui c'è un attivo ed un passivo, e il passivo è quello della banca italiana. Target 2 è il sistema che registra l'insieme totale, ecco, delle transazioni all'interno dell'euroarea. E cosa accade? Accade che due parlamentari europei, poiché l'andamento dei saldi negativi dell'Italia su Target 2 è molto preoccupante, scrivono una lettera al presidente della BCE, l'onorevole Marco Valli, l'onorevole Marco Zanni, e gli dicono: caro presidente, ci spiega, ci dà la sua interpretazione autentica sul fatto che il peggioramento molto rilevante dei saldi di Target 2 è influenzato in che modo dal QE e dalla regolazione degli acquisti fatti nel programma di acquisto straordinario in corso da parte della BCE. Ecco, il presidente Draghi gli risponde dicendo: sì, in effetti i saldi di Target 2 sono molto esposti alle modalità con cui si realizza il programma di acquisto per fattori tecnici e perché i servizi di regolamento sono concentrati in alcune piazze finanziarie, e questo determina un andamento del saldo negativo italiano più rilevante. Ma l'interesse, oltre tecnico per chi segue queste faccende, come noi poveri matti, è in una frase che mette alla fine di questa lettera, perché il presidente Draghi scrive: se un paese lasciasse l'eurosistema, i crediti e le passività della sua banca centrale nazionale nei confronti della BCE dovrebbero essere regolati integralmente. Ecco, la conclusione di questa frase fa scrivere a tutti l'indomani: Draghi innanzitutto per la prima volta accenna esplicitamente all'idea che qualcuno esca dall'euro. Secondo, ci presenta il conto. E quindi, cari signori, qua ci sono 360 miliardi lordi e poco più di 310 miliardi netti registrati sul target 2, che diventerebbe il costo dell'Italia da pagare su questo profluvio di articoli. Noi abbiamo chiamato, perché ci è piaciuto in particolare che cosa ha scritto, il professor Andrea Terzi, che insegna economia monetaria all'Università Cattolica, oltre ad aver preso master e PhD di specializzazioni internazionalmente. Grazie di essere con noi, professore. Buongiorno, sono professore di economia alla Franklin University di Lugano. Esatto. E insegno economia monetaria alla Cattolica. Ok, infatti possiamo anche lasciare da parte il professore, esatto, gli studenti, mi chiami pure per nome. Perfetto, buongiorno, benissimo. Giannino. Allora, lei ha scritto sulla voce.info e a noi aderiamo alla sua attività, però la preghiamo di spiegare ai nostri ascoltatori nella maniera più comprensibile possibile, a costo di fare esempi stupidi come quelli che ho fatto io. Come e perché è importante, sì, il richiamo di Draghi, forse non proprio da prendere alla lettera come molti pensano di fare. Dice, ah, allora lo sappiamo, basterà vedere il target 2 ogni giorno e sappiamo che procede all'aereo, quello è il costo da pagare. Perché no? Allora, spiegare il target 2 sabato mattina mi ha segnato un compito non facile. Ma io ho sentito già l'esempio che lei ha appena descritto, che già racconta la situazione. Allora, iniziamo con una premessa indispensabile, che ogni economia monetaria deve avere un sistema dei pagamenti che sia affidabile, rapido e sicuro. Allora, o si usano le banconote, che possono essere un po' scomode quando si paga il prezzo di un aeroplano, e quindi ci vuole un sistema dei pagamenti. Il target 2 è il sistema dei pagamenti nell'area euro. Come lei ha già anticipato, è una piattaforma unica europea. Si chiama appunto target 2 perché è stato unificato pochi anni dopo la creazione dell'euro. Prima si chiamava target, adesso si chiama target 2. Lo possiamo anche chiamare target per comodità comunque anche adesso. Non è altro che una tabella contabile, una specie di spreadsheet, se vogliamo, che tiene i conti. Lei faceva l'esempio dell'acquisto di una macchina tedesca. Dal sistema dei pagamenti naturalmente ci passa assolutamente di tutto. Ci posso pagare un soggiorno a Berlino, posso comprare un fondo londinese, che se lo acquisto con fondi della mia banca, ci saranno quei passaggi che lei diceva, che per dirli, allora, facciamo conto proprio, acquisto un fondo londinese che opera in euro su una banca olandese, diciamo, non è detto che operi su una banca italiana, anzi spesso operano proprio su banche tedesche, olandesi e lussemburghesi. Allora, il cliente italiano paga la sua banca, nel senso che si fa debitare il conto. La sua banca paga la Banca d'Italia, nel senso che si fa debitare il suo conto. La Banca d'Italia paga la BCE, per semplificare, facendosi addebitare il suo conto, cioè il conto della Banca d'Italia. La BCE paga la Banca Centrale Olandese accreditandola, la Banca Centrale Olandese accredita la banca olandese, accreditando il suo conto, e la banca olandese accredita il cliente finale. Funziona così. Sì. Funziona così. Il saldo che lei diceva, e che è il punto della lettera, è quindi il conteggio dei flussi in uscita e in entrata dalla Banca d'Italia all'eurosistema, all'area euro. E ci passa appunto di tutto. Ora, per semplificare, in tempi normali, vale una sorta di principio dei vasi comunicanti, cioè la banca olandese riceve tutta questa liquidità, non sa veramente cosa farsene, e le conviene prestarla magari proprio a quella stessa banca italiana da cui è partito il bonifico, magari un'altra, insomma è un principio dei vasi comunicanti, per cui chi ha tanta liquidità la presta, chi è appunto in deficit di liquidità se la prende in prestito, anche perché fino al 2007 la liquidità nel sistema bancario che la BCE immetteva era proprio esattamente quella, che la minima che serviva per gestire i pagamenti, diciamo. per semplificare un po'. Cosa è successo? Che poi sappiamo bene dal 2008, anche qui per raccontare una storia lunga in poche parole, la BCE ha intrapreso politiche monetarie eccezionali e queste si riflettono nei target delle nazioni, anzi non sono nei target delle nazioni, questo non è corretto, nei target delle banche centrali nazionali. Perché il saldo è della Banca d'Italia, sì. Non è dello Stato, non sì. È delle banche, ecco. E quindi è accaduto, ci sono stati un po' due momenti, no? Che descrivevo anche lì nell'articolo, anzi ho dovuto scrivere due articoli perché uno spiega come funziona il target e l'altro affronta un po' la situazione odierna e la questione della lettera. Quindi c'è stato un periodo 2011-12 sostanzialmente, in cui cosa è successo? Che le banche di alcuni paesi, Italia compresa, hanno perso l'accesso al mercato monetario, cioè nessuno gli riprestava la liquidità e quindi se la facevano prestare dalla Banca d'Italia, che poi faceva un pagamento per loro conto, e uscivano euro nell'area dell'eurosistema senza tornare indietro e quindi si è formato un saldo target negativo e anche molto negativo. Poi c'è stata l'estate del 2012, ricordate il whatever it takes, no? Sì, sì. Quindi Draghi che diciamo salva l'implosione dell'euro, gli spread che rientrano e quindi si normalizza la situazione, i vasi comunicanti riprendono un pochettino a funzionare, i saldi si riducono, non si azzerano, ma non è che si debbano per forza azzerare, questi saldi esistono anche negli Stati Uniti peraltro, ci sono i 12 distretti federali, hanno un principio molto simile e hanno anche loro dei saldi negativi, saldi positivi. Poi cosa è successo ancora? Che questi saldi si sono allargati, cioè per l'Italia sono cresciuti, per la Germania, per l'Italia sono cresciuti in negativo, per la Germania sono cresciuti in positivo, il Lussemburgo ha dei saldi positivi abnormi data la dimensione del paese, che sono visibilissimi anche nel grafico che ho pubblicato. Quello dell'Italia ha raggiunto i 350 miliardi più o meno, anzi qui notizia perché hanno aggiornato il dato ieri alla Banca Centrale Europea e quindi non era nell'articolo della Voce, il saldo di dicembre è sceso di 3 miliardi, cioè da 359 miliardi è sceso a 356 miliardi, diciamo che da settembre è stabile, non c'è una crescita, ecco. Comunque, ecco, per capire, la ricostruzione temporale che ha fatto, poi ripeto, siccome si vede meglio con un testo scritto, con i grafici, eccetera, andate a vedere, che poi l'articolo del professor Terzi è sintetico, non è questo. È la base che consente, per esempio, alla Banca d'Italia di rilevare a tutti le semplificazioni giornalistiche che vanno a vedere e utilizzano il dato del target 2 per dire si sta accentuando la fuga di capitali di disinvestimento all'Italia. Ecco, la Banca d'Italia ogni volta riporta dicendo no, guardate, per questa e questa ragione, che esteticamente sono gli argomenti che ha usato il professor Terzi, in realtà non risultano significativi disinvestimenti realmente dai titoli pubblici italiani da parte dei non residenti. Quindi primo, attenti a capire cos'è target 2, secondo, attenti a capire la complessità dei fenomeni, anche le politiche straordinarie praticate in questi anni da Draghi che ieri è stato definito da Handelsblatt oramai come il mister antipopulista, l'unico vero europeo. C'è qualche tedesco che lo apprezza anche, tanti altri lo criticano, però detto tutto questo, alla fine della fiera, detto tutto questo, non è che la frase di Draghi nella lettera identificava quindi il saldo netto su cui siamo esposti, 300 rotti miliardi, come il conto che a quel punto Banca d'Italia dovrebbe pagare, perché il saldo netto è della Banca d'Italia, se uscissimo dall'euro. No, non è così. No, non è così, anche perché gli europarlamentari hanno fatto una domanda più ampia, perché loro hanno chiesto appunto di spiegare come mai i saldi sono cresciuti, eccetera, eccetera, e poi chiedono Come andrebbero pagati questi saldi, specialmente da un paese che li abbia in debito, se un paese a caso volesse uscire dall'euro? Hanno chiesto come. Draghi non ha risposto a come. Ha detto andranno regolati integralmente. Allora, punto. Conclusione di questa spiegazione, che per me conta molto, perché la gente deve capire di cosa stiamo parlando, perché altrimenti ognuno si alza e fa numeri a cazzo, se mi permettete. C'è chi dice usciamo gratis, non ci sarà nessuna conseguenza. C'è chi dice questa è la cifra. No, bisognerebbe capire bene disaggregando, perché la piattaforma registra cose varie e diverse. Questo tra l'altro non è che staccare il biglietto significa davvero realizzare il costo dell'impatto economico di cosa poi significa tornare alla moneta nazionale, come se in maniera concordata, centro fasce di cambio, concordate oppure no. Però anche il biglietto da staccare non è questo, c'è, e fa bene Draghi a dirlo, e si tratterebbe a quel punto di mettersi al tavolino e di valutarlo. Bene, grazie intanto al professor Terzi, e noi torniamo tra un minuto, tornando proprio dall'aspetto tedesco, perché in Germania intanto, sorpresa, il fatto che il candidato contro la Merkel sia Schulz, ricordate quello che Berlusconi diceva, il capo, ha cambiato le prospettive, improvvisamente in pochi giorni, boom, ascesa nei sondaggi, la Merkel si pone per la prima volta, sui giornali tedeschi il problema, forse non ce la fa, cosa vuol dire tra un minuto? Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed è la sigletta felliniana con la quale approfittiamo, prendendo una dichiarazione, un fatto, un avvenimento, per una riflessione più di fondo, per così dire, di paradossi e contraddizioni. Sarebbe stato scontato prendere una tanta dalle telefonate di Trump negli ultimi giorni, però vi graziamo, perché vi parliamo. Beh, però hai visto che ha accolto quelli dell'Harley Davidson davanti alla Casa Bianca? Sì, ha accolto la Casa Davidson, credevo ci fossi anche tu. No, poi fa anche cose diverse da quelle che si nota, non ci sono solo quelle negative. Per esempio ha gelato Netanyahu mandandogli una telefonata dicendo fermo lì, perché se pensi che io sia favorevole adesso all'espansione immediata di insediamenti nei territori occupati hai sbagliato, fermo. Allora è un tipo un po' strano su Trump, ma detto questo, no, come ieri mi sono occupato del fatto che al voto al Parlamento britannico su Brexit i laburisti hanno votato a favore, ma in Italia quasi nessuno se n'è accorto. Allora in Germania sta succedendo una cosa, sì, in Germania, la Merkel, la prima volta, avete sentito il giornale radio in cui ha chiesto il leader tedesco ieri che si parli esplicitamente di un'Europa a due velocità, lo faceva per la cooperazione anche nel Mediterraneo, però è chiaro che lo dice e tutti pensano acchio, ci siamo, anche la Merkel ammette che ci saranno sviluppi a un doppio passo nell'euroarea e nell'Unione Europea, ma intanto in Germania sta succedendo qualcosa su cui vale la pena riflettere, perché la nomina come frontrunner, come candidato rivolto a sfidare la Merkel alle elezioni di fine anno per la cancelleria da parte del Partito Socialista non è Sigmar Gabriel, usurato dall'eccesso di cooperazione di governo con la Merkel, ma è l'ex presidente del Parlamento Europeo, quello che stava molto simpatico Berlusconi, caro Renato, lo chiamava sì, il capo. Sì, me lo ricordo. Schutz. Che e allora, è l'esordio di Schutz sulla scena come frontrunner, lui che non ha mai avuto responsabilità di governo in Germania, in realtà per il suo partito e per il dibattito interno non solo tedesco ma anche europeo ha una specie di aria vivificante, perché improvvisamente in pochi giorni è salito tantissimo nei sondaggi, da che il candidato socialista era staccato i 12, 13, 14 punti, paf, si arriva a 6, 5 punti, ma con un enorme balzo in avanti. Quindi intanto è considerato un candidato in grado di batterla la Merkel. Uno. Due, porta su temi dell'Unione Europea, tutti i temi di cui abbiamo parlato in questa puntata, un approccio completamente diverso. Allora ci siamo chiesti, chiediamo al nostro amico Udo Kumpel di spiegarci come davvero può evolvere questa situazione e con quali eventuali novità, ipotizziamo che ce la possa fare a vincere, cosa avverrebbe della posizione tedesca, meno rigida, più amica dei no euro, cosa avverrebbe? Udo, intanto grazie di essere con noi. Grazie a voi, ecco sì. Martin Schulz, che io lo seguo da tanti anni a tutti i vertici europei, devo dire che ha fatto boom in Germania, perché pensate, è vero che non possiamo fidarci dei sondaggi, sappiamo benissimo che margini di incertezza hanno, però questa è anche una questione di nostro errore giornalistico di vedere dei sondaggi che danno l'1% di vantaggio a uno quando sappiamo che hanno un margine di insicurezza del 3-4-5%. Comunque questo signor Schulz, che non è un laureato, che è un self-made man, mi pare che non abbia neanche la maturità, che ha avuto un passato di alcolizzato grave, proprio che si è rifatto una vita completamente nuova, questo Martin Schulz ha fatto salire il suo partito dal 20% al 30%, pensate, insomma. Nell'arco di 8 giorni. 8 giorni. Poi una cosa ancora più sorprendente, nella scelta che i sondaggi si fanno, chi voteresti se fosse possibile in Germania eleggere direttamente il cancelliere? La Merkel guida da 12, 13, 14 anni con il 50-60%, anche se il suo partito non raggiunge queste percentuali, è indicatore della stima personale per Angela Merkel. Invece, guardate quello che è successo. Finora il capo del Partito Socialdemocratico, Sigmar Gabriel, un irruente simpaticone del Niedersachsen, della Bassa Sassonia, aveva il 17% di stima diretta. Insomma, pochino, no? Proprio a livello molto basso. Mentre è arrivato Schulz, lui è salito al 51% dei tedeschi voterebbero lui se fosse possibile eleggerlo direttamente, e la Merkel è scesa dal 46% al 31%. Dunque, in Germania si sta profilando quello che si chiama desiderio di cambio. Esatto. Cioè, sondaggisti misurano se la popolazione ha veramente il desiderio di cambiare personale, di cambiare direzione. Cambiare direzione è un po' forse meno forte, perché socialdemocratici e democristiani governano insieme, voi lo sapete, per necessità, perché non ci sono, almeno adesso non ci sono alternative politicamente praticabili. No, ma aggiungiamo che anch'io seguo Schulz da anni. Schulz, dal punto di vista del versante interno delle sue politiche economiche, per quello che riguarda la Germania, sottolineo, non ha mai avuto incarichi di governo, però. Bravo. A me non sembra sindaco. Uno particolarmente sì, sì. A sinistra, cioè non è paragonabile con personaggi del socialismo francese alla Mélenchon, oppure no, come Benoît, quello che ha vinto. No. No, e che no. Non andrà in ballottaggio, perché non ha mai dato mostra di proposte radicali di quel tipo lì. Però lui ha fatto, adesso ha lasciato la prima intervista, pensate, lui è investito da un hype proprio in internet, e sapete, i giovani votano, attualmente voterebbero gli elettori tra 18 e 25 anni voterebbero a maggioranza assoluta Schulz. Questo è veramente una grande novità, perché questo è una specie di trend, esatto, no? Mentre tra gli anziani oltre 60 vince ancora l'AfD. Quali sono gli effetti già sul panorama politico? Schulz ha dato si è posizionato politicamente, questo è molto importante anche per l'Italia, no? Certo. Lui ha avuto una grande capacità come presidente del Parlamento europeo di unire la famiglia socialista, che come sappiamo è più forte nel sud che nel centro o nel nord attualmente in Europa, anche se una volta era il contrario, però adesso è diventata più una famiglia dei poveri petulanti di euro e di lotte contro Draghi e quant'altro, no? Lo sappiamo che in realtà la realtà è questa, però Schulz è sempre riuscito a tenerli uniti, perché lui ha messo nella sua prima intervista, molto importante, naturalmente non recensito e notato da nessuno in Italia, evidentemente sono sempre occupati di altre questioni dell'ombelico italiano, poi quando fine scoprono il mondo e circa 4 mesi dopo. Allora, cosa ha detto Schulz? Ha detto il tema per la Germania è la giustizia sociale, che abbiamo avuto quel 20-30% della popolazione tedesca che non ha partecipato per niente a questa grande performance economica della Germania. Dunque io voglio tassare di più i ricchi e io voglio dare più sostegno all'integrazione, a sostegno proprio di quel 20-30% della popolazione che è un po' sul vagone che si è staccato dalla grande locomotiva tedesca. Dunque è un programma di sinistra, di giustizia sociale, ma senza la demagogia e del sinistroida, ma è perché lui nelle sue posizioni... E ti dirò, correggimi se sbaglio. Per il mercato libero, è uno che ha difeso gli accordi anche con gli Stati Uniti, quelli che Trump ha affossato. E ti dirò adesso, correggimi se sbaglio, ma vedremo, ci sono tanti mesi di qui alla fine dell'anno. Però, certo, sono 8 mesi ancora, però, per queste caratteristiche, proprio perché si è mostrato in grado così rapidamente di scatenare, ma c'è finalmente una possibile alternativa. Di qui mi sento di dire che potrebbe essere una roba con un impatto molto forte nella scelta dei tedeschi, la vedremo, ma anche sul dibattito europeo, perché Schulz ha caratteristiche completamente diverse, senza per questo uscire dal mainstream dell'impostazione tradizionalmente solida tedesca. Io prendo questa posizione anche perché voglio sperare che sia anche un riequilibrio rispetto all'ipotesi che sennò vince la Le Pen in Francia, perché attualmente io penso che tutti dicono che nei sondaggi del secondo turno Macron la stacca ai 30 punti. Ragazzi, io penso che ci sia una sopravvalutazione di questo fatto qua. Macron un partito dietro non ce l'ha, parla alla Francia che sta bene, non a quella che sta male. A quella che sta male parlerà in campagna elettorale. A Le Pen, che ha dietro Bruno, uno dei realizzatori della sua performance, del suo riaccreditamento in questi anni, che è un fine politico. Ecco, io dico che questa novità di Schulz, vediamo, seguiamola con attenzione. Chiederemo a Udo di tornare su questo tema nei mesi, vedremo l'impatto che ha. Intanto grazie Udo, e noi torniamo tra un minuto. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci tornati, Carlo Alberto e Mario. Allora, avete comprato macchine tedesche nel frattempo, aggravando i nostri saldi negativi su Target 2? Carlo Alberto, sì, eh? Io non ne ho 250, te lo ricordo, che ho la tessera di Drive Now, ricordo questo. Mi posso fare un commento su Schulz? Interessantissimo, certo. Quello che ha detto Udo. È la prima volta che in Germania si assiste al trasferimento inverso di legittimazione. Uno che ha fatto esperienza nel Parlamento europeo che torna a livello nazionale, cioè con Prodi in Italia. E di solito c'è il contrario, il Parlamento europeo è una specie di riserva degli elefanti, no? Ci mandi i politici bolliti, che a livello nazionale ha poco da dire. È un segnale per me interessante. Chi ha fatto esperienza in Europa, è stato abituato a parlare in inglese con 20 e passa nazioni, porta in patria una cultura dell'inclusione diversa. Poi che voglia fare politiche distributive, questo è un tema che volete più. E poi lo vedremo. Però a me interessa molto questo aspetto qua. È la prima volta che un politico nato in Europa, formatosi in Europa, va in Germania a chiedere un mandato. Allora, è forse l'inversione di una Germania più europea invece di un'Europa più germanica? Non lo so, è presto per dirlo. Ma direi che è un segnale interessante. Macron sarebbe la stessa cosa, un po' più enà, un po' più francese. Sono d'accordo con te, è prematuro. No, è prematuro. Io figurati, non è che mi dico vince Le Pen, però vedo dei sondaggi sulla stampa francese che non mi convincono. Mario, che pensi? Ma io sono d'accordo. Per quanto riguarda Schulz, ricordiamo comunque che è tedesco, quindi, esatto. Quindi è molto poco italiano, ecco, se vogliamo usare questo termine, però consideriamo anche una cosa. Allora, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Carlo Alberto, cioè un politico tedesco-europeo, quindi che parla molte lingue, che ha avuto una esposizione a diverse culture, eccetera, eccetera, che tuttavia potrebbe appunto rivelarsi il jolly, ma non dimentichiamo anche il fatto che Merkel è logora, perché il potere logora quelli che non ce l'hanno, ma soprattutto quelli che ce l'hanno. Cioè, nessuno disconosce i suoi meriti, ma la quarta volta. Esatto. E voglio dire, probabilmente il paese ha bisogno di un cambio di paradigma, che non vuol dire rivoluzione, certamente un paese appagato, con delle metriche economiche robustissime per merito loro, demerito altrui, distorsioni indotte dalla costruzione europea o solidità intrinseca del paese, però sai, arriva anche il momento in cui l'elettorato cerca qualcosa di differente, per cui però adesso vediamo, mancano ancora 8 mesi. Sì. Però intanto la novità c'è, esatto. Io sono contento che noi la registriamo, perché la stampa italiana ha guardato altrove, beh, come giusto, io non voglio dire, ognuno ha le sue città a chiedere notizie. Per me quello che capita in Francia alle prossime elezioni e in Germania a fine anno conta quanto le minchiate, capite, di i segretari di partito che vogliono andare a votare solo per eleggere le capiedi con capilista bloccate. Io penso che contino di più quello che faranno in Francia. Ma tu come la pensi, Renato? Ah, su questa cosa qua, secondo me c'è una corrente che sta attraversando l'Europa molto strana. E con le elezioni in Germania e Francia, dopo Trump, con tutti, sarà un bel... Capito? Si tratta di vedere se il torrente continua impetuoso o se in Francia, in Germania... Io personalmente diciamo che sto serrando un po' le vele, sai come quando vedi la tempesta che arriva... E quindi... Ma stai dicendo nell'impresa anche? Anche in... No, ma queste cose qua, poi la gente si dimentica sempre che impattano fortissimamente, sulle aziende. Perché allora, tornando a Trump, il protezionismo. Allora, il protezionismo, io l'ho già ripetuto diverse volte, tanta gente continua a dire, ah che bello, sì, fa bene chiudere le frontiere, eccetera. Noi se ci chiudiamo qua dentro, non ci viene neanche da mangiare, tanto per intenderci, perché produciamo... Non è esattamente l'argomento ricorrente in chi invece issa la bandiera sovranista, è convinto che noi facciamo di tutto, abbiamo risorse naturali, non abbiamo dipendenza energetica, ci inventiamo di tutto, basta stampare moneta, qual è il problema? No? Ci siamo inventati però una cosa, tu hai la barca? No. Ecco. Allora, no. Se tu avessi la barca, dovresti sostituire le radio e andare a fare il corso di operatore radio. Perché siccome in Italia ormai abbiamo trovato che per fare business, cosa facciamo? Facciamo le certificazioni, i corsi, il patentino, la cosa, eccetera. E loro adesso si sono inventati di dover mettere su tutte le... tutte le barche una nuova radio col pulsante di emergenza che solo per fare l'abilitazione, la certificazione del corso, e poi devi fare l'abilitazione e avere la patentino per guidare la barca. Ma se abbiamo il mondo iperregolamentato, figlio mio, mica quindi vorrai vivere nel mondo dell'anarchia liberista che sogna Giannino. No, poi sai, noi liberisti, diciamo, se uno è in mezzo al mare ed è in difficoltà, troverà il modo per farsi... Lo farà, se col corso il bollino di Stato sarà sicuramente più sicuro in mezzo al mare. Ovviamente ridacchio, però da questo punto di vista... quindi Renato, sei un imprenditore che credi che con la svalutazione monetaria andresti bene? Tu sei sui mercati internazionali, ci guadagneresti di soldi col torchio monetario. Come dice sempre Carlo Alberto, che è più bravo di me perché fa il professore, la gente si dimentica sempre che ormai c'è una roba che si chiama supply chain, cioè catena del valore a livello mondiale, per cui nessuno è più in grado di stare nel suo giardinetto. Ma va bene, ma tu con la moneta svalutata guadagneresti. Ah sì, ma peccato che le materie prime le importiamo le pagherei di ma più. Ma non è vero, noi avremo una lira fortissima. E caro Roberto, ricordagli un po' la BC, noi avremo una lira fortissima, non è così caro Roberto? Mario, noi siamo così matti da pensare che non avremo una lira fortissima? Tu che dici, Mario? Noi sostituiremo, sostituiremo tutte le produzioni importate con produzioni domestiche e con un po' di fortuna si svilupperanno anche giacimenti di materie prime in Italia. È solo questione di annaffiarli con amore e poi ce la faremo. Sgorgherà il petrolio. Esatto. Sborgherà il petrolio. Ma torneremo su tutto questo, cari ascoltatori. Intanto oggi gli 9 euro a prezzi, no? Perché abbiamo spiegato agli ascoltatori di qua che non sono i 310 miliardi del saldo netto di Target 2 quello che Banca d'Italia dovrebbe pagare per uscire dall'euro. Ci servono le conseguenze economiche, ma vedremo. Torneremo a occuparcene. Intanto grazie per l'ascolto. Culturale sulla 24, appuntamento con me Alessandro Milan lunedì alle 8:20. In attenti a noi due, buon fine settimana. Fratelli, l'Italia, l'Italia.